cartolina. Attenzione, stanza in cartolina. Il Q canale 10 che è avanti questa postantina, che attenzione, sta salendo in Chiavi, ci siete?